ci sei, negli angoli dimenticati è troppo buio oramai, e nei sorrisi di chi sa capire, e fra le note di una melodia ci vuoi parlare, sai vorrei sentire che ci sei, che nei deserti getti acqua di settarli ora, che dai fucili uscissero solo fiori, e che per separarci non bastino i colori. Nell'ebbrezza del mattino che mi sfiora, e nei momenti difficili sì, vorrei che tu fossi qui, io vorrei. Dai, se ci sei, ci sei.